Ecco, noi Fabio Galadini, direttore della 30ª edizione del Civita Festival dall'11 al 22 luglio. Fabio, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, raccontiamo un po' intanto cos'è il Civita Festival. Civita Festival quest'anno festeggia 30 anni, quindi è un festival che esiste da 30 anni. Esiste da 30 anni in un magnifico contesto che sarà sempre la location ufficiale, cioè il museo dell'Agrofalisco, situato dentro il cortile maggiore del Forte San Gallo, a Civita Castellana, un festival storico che si è configurato sempre come festival prevalentemente musicale, ma negli anni abbiamo introdotto anche altre discipline, il teatro, la danza e quant'altro. È stato sempre un festival, diciamo, che ha guardato molto al territorio dell'Alto Lazio, ma che poi negli anni è diventato, diciamo, noto sul piano nazionale. Quest'anno come si caratterizza? Beh, quest'anno abbiamo, come dicevo prima, prevalentemente ci sono, diciamo, concerti di musica, ma ci sono anche tre iniziative importanti di teatro. Sulla musica, stasera inauguriamo con la banda dei Carabinieri, che è magnifica. Io esorto chiunque ad andare a vedere un concerto della banda dei Carabinieri, che è veramente fantastica. Ed è naturalmente un concerto celebrativo perché è la 30ª edizione. E poi andiamo avanti con alcuni appuntamenti importanti, ne ricordo alcuni. Per esempio, il 21 abbiamo Dendorea, che, come, è inutile presentarlo. Tra gli altri, per esempio, domenica 15 abbiamo Nello Salta con tutte, diciamo, musiche della nostra tradizione cinematografica. Lui è considerato la tromba del cinema italiano, magnifico tromba, compositore anche egli, ma insomma sostanzialmente noto per aver lavorato insieme a Morricone e molti altri. Ma una cosa che vorrei, diciamo, segnalare ancora di più è questa orchestra, questa New Talent Jazz Orchestra, che è una, Conosciamo bene, sì, sì, è Mario fantastica, Corvini. con Mario Corvino, questa è veramente geniale, sono fantastici. Poi il sax solista di questa orchestra è Vittorio Cuculo, quindi, diciamo, la qualità è sempre all'ordine del giorno. Un altro progetto musicale, squisitamente musicale, è quello di John Arnold, questo batterista che ha suonato praticamente con tutti. Ma la cosa particolare, ed è proprio quello che noi presentiamo quest'anno, è che lui è il nipote di Hoagy Carmichael, cioè uno dei maggiori musicisti americani di tutti i tempi, e quindi lui fa un doppio concerto, uno il primo nella stessa sera insieme a questo pianista fantastico George Bach, che è pianista noto in America soprattutto nella Detroit, la musica di Detroit, e poi il secondo concerto subito dopo, appunto, con il John Arnold, che fa questo progetto specifico su suo nonno, su Hoagy Carmichael. Questo è un nuovo progetto fantastico, sono molto orgoglioso, insomma, di presentarlo qui al Civita Festival. Tutti i riferimenti web per la programmazione. Guarda, c'è il sito che è attivo già da adesso, stamattina facciamo la conferenza stampa e poi inaugura la mostra di Justin Brasso, è un inglese che sono 15 anni che sta in Italia e si muove tra realismo, proprio del manierismo italiano e del realismo fiammingo, insieme all'iperrealismo, un pittore fantastico, perché c'è anche l'arte in Civita Festival. Comunque tutte le informazioni stanno sul sito www.civitafestival.it, e volevo soltanto, se ancora c'è spazio, Certo. parlare un po' di teatro. Ci sono due cose che mi interessano particolarmente. La prima è Asciuché, che è uno spettacolo di Ivano Picciallo, fantastico, che ha vinto l'anno scorso il Roma Fringe Festival 2017 come miglior spettacolo, miglior drammaturgia, e lui è fantastico, sta ad Avignone, il Fringe di Roma, di cui mi fregio quest'anno di essere il direttore, si sta, insomma, connotando come uno dei trampolini più significativi per la nuova drammaturgia. Pensa che Rucheli di Busetto, che ha vinto l'edizione 2016, ha vinto proprio pochi giorni fa il Fringe a San Diego, quindi siamo molto orgogliosi. Rucheli, tra l'altro, lo abbiamo programmato al radioteatro in radio, insomma. Sì. È fantastico, quello è un testo sconvolgente, quello di Busetto, ma adesso parliamo di Ivano. Picciallo. E poi chiudiamo con questa produzione che è una ripresa di quest'anno di Manuela Kusterman, Dichiaro guerra al tempo, che è stata presentata al Vascello, ripresa quest'anno. Noi la presentiamo qui in estiva con Melania Giglio, questa cantante attrice strepitosa, e questi sonetti rivisti da Manuela, insomma ritrattati da Manuela Kusterman, poi vengono accompagnati dal canto di Manuela Giglio, Melania Giglio, scusa, e con le musiche di Pink Floyd, di Deep Purple, di Prince. È fantastico, quindi è un festival che è di livello, nel senso che presentiamo cose abbastanza, diciamo, di qualità, ma poi anche molto un festival che si traduce proprio in un rapporto empatico con il pubblico. Abbiamo sempre, quasi sempre, sold out, quindi sono molto soddisfatto. Bene, allora ricordiamo la 30ª edizione del Civita Festival, 11-22 luglio. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Galadini. Fabio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi per la pazienza e a presto. Grazie a tutti.